canzone. Francesco partì una volta per un primario, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Siamo in tema? Altro che, siamo in tema. È venerdì ed è successo, nell'ora in cui si sciolgono gli abbracci e non solo quelli onirici, ci si prepara alla preghiera ed è nell'aurora lode all'inviolato, nel venerdì che si restituisce i cuori, è successo che un garofano, dai colori tenui e perfetti, ha fatto credere ad Akbar, che è colui che volle Taj Mahal, che fosse finto. E lo ha sfiorato con le dita Akbar e ha detto: la perfezione a volte trae in inganno, sembra una finzione il fiore e invece è puro cuore. Bene. E allora le nostre bolle, Mario, che cosa bolle nella tua pentola senti, oggi? Senti, lettere. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche, come voi ben sapete. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Allora, lettere Giovanni, lettere. Ammonizioni. Siamo in piene lettere. È la buropara. Scrivono tutti. Allora, lettera a Valls, lettera a Renzi. Il Regno Unito deve pagare 2 miliardi, noi dobbiamo fare i compiti. No, diciamoci la verità, ma è uno scenario da pazzi. Veramente. Cioè non ne hanno azzeccata una, perché poi alla prova dei fatti è questo. Però questa Europa dei burocrati. Ora io faccio una cosa piccola, non voglio essere cattivo perché io sono notoriamente buono, ma Jean-Claude Juncker è il commissario finlandese Katainen, ma cosa vogliono? Cioè, allora Juncker, che è il leader, il capo, il primo ministro del Lussemburgo. È il paese che è al primo posto nel mondo per opacità fiscale. Certo, io non finirò mai di ripeterlo. Ce lo spiegavi già anche ieri. Infatti. Ma insomma, viene a dire: no, perché voi dovete essere chiari, ci dovete spiegare. Il Lussemburgo. Finlandia? La Finlandia, il paese di Katainen, quello che dà lezioni a tutti, che ha firmato la lettera, eccetera, ha subito il downgrade di Standard & Poor's e il suo primo ministro non ha saputo dire altro che questo. iPhone ha ucciso Nokia e iPad ha ucciso l'industria della carta. Ma torneremo. Ora intanto speriamo che non tornino, ma poi, perché se no torniamo indietro ovviamente con la tecnologia. Ma poi c'è un piccolo aspetto: ma uno che la cui economia dipende dalla carta e da Nokia viene a dare lezioni di stile anche a questo punto alla terza economia d'Europa e alla seconda per manifattura che è l'Italia? Ma per favore, ma è chiaro che qualcosa non va in una costruzione di governance europea del genere. Non ci sono più i fondamentali. Non durerà questa governance. No, mi spiace, intanto, ma su questo ha ragione Renzi. Quanto costa il palazzo dell'Europa? Mi pare che ieri si è aperto una piccola falla. I conti sono molto interessanti e qui avremo alleati gli inglesi. Che giustamente dico, ma non vogliamo più pagare tutta questa roba. Verrà il momento di Guarino. Credo proprio di sì. I call it magic when I'm with you, and I just got broken. Allora, grandissimo pezzo dei Coldplay, Magic, l'ultimo album. Mi sa che è la mia vera aspirazione fare il DJ, ma mi sembra anche a me, sì. Anche di qualità. È una vecchia passione di quando ero bambino. Profitti e perdite, però in un mondo che è magic come quello dell'high tech americano, è molto interessante. Ci sono dei dati contrastanti, è molto interessante da leggere per chi fa imprenditoria e vuole seguire i nuovi modelli. È un mix di cose. Amazon ha riportato, ahimè, 437 milioni di dollari di perdite nell'ultimo trimestre, e la perdita vendita più grossa. Riportate, il titolo è andato giù, però Jeff Bezos dice: io ho speso molto per il nuovo Kindle, ho fatto nuovi stabilimenti di distribuzione nel Regno Unito in particolare, l'infrastruttura cloud costa, vedrete che noi avremo risultati e faremo una spending molto più oculata. Ma a proposito di cloud, e vedete come il mondo si rovescia, mentre Amazon ha perso perché ha investito anche molto in questo settore, chi guadagna proprio grazie al cloud e cresce è Microsoft. È il gigante mondiale del software, lo sapete tutti. Ebbene, i suoi servizi di archiviazione di dati e terzi online ha aumentato i ricavi del 128%, e la società da settembre, immaginate, è cresciuta del 10%. Parliamo del titano, di uno dei titani di Wall Street. E parliamo, sia nel caso di Amazon sia nel caso di Microsoft e di questi dati, di società, lo ricorderò sempre all'infinito per tutti, che disintermediano il business tradizionale di chiunque, nessuno escluso, lo digitalizzano, e i loro modelli sono la base di riferimento per chi vuol fare economia nel XXI secolo. Ecco Mario, una domanda di Giovanni che ci scrive. Ecco, ci dice Giovanni, che succede se noi non si rispetta i parametri dell'Europa? Ma che cosa ci farebbero? Ci bombardano, ci aprono una procedura di infrazione. Resta lì un pezzo di carta. Ma, francamente sì, no, potrebbe aumentare, aumenta lo spread in teoria sui titoli di Stato. Vabbè. Però voglio dire, siccome Roma sta male, ma non è che Bruxelles sta meglio, o Parigi sta benissimo, o Berlino può fare la festa. Cioè, secondo me è una cosa totalmente irragionevole quella che stanno facendo. Salamini. E dunque cose nuove, avete già sentito la sigla, e c'è questa stagione, come spiegarla, mentre per la nuova unità il giornale fondato da Antonio Gramsci si profila una direzione molto molto squillante, particolare. Sono stati fatti nomi di illustri giornalisti, però pare che il vero nome sia quello di Barbara D'Urso, e oggi i giornali ne riferiscono, ne danno notizia che probabilmente sarà direttore dell'unità. E mentre lei arriva lì, dall'altro lato, in casa Berlusconi, vince la linea di Matteo Renzi. Che cosa è accaduto in realtà? È accaduto che, dove è fallito Gianfranco Fini nel tentativo di fare del polo delle libertà, del mondo moderato, insomma della casa del popolo, come cavolo si chiamava all'epoca la dunata dei centrodestri, il predellino, ecco, invece c'è riuscita la signora Pascale Francesca, che attraverso un motivo... potremmo dire che dal manganello al calippo c'è stata tutta una storia che ha trasformato il mondo dei moderati. Insomma, è andata a finire che ha vinto quella linea di Matteo Renzi, e quindi ci sono sì alle unioni omosessuali, adozione agli stessi, incentivi a resezioni dei genitali, quindi ius soli, cioè cittadinanza a tutti, partita IVA agli scafisti, punizioni terribili agli uomini e alle donne col vizietto, cioè quello di amarsi tra maschi e femmine. Avrebbe potuto dire Totò: qui si abusa, ma in questa sorta di cortocircuito tra il calippo, che un tempo fu manganello, e i tempi nuovi, c'è la storia di un uomo più che maturo, di un uomo forse potremmo dire perfino anziano, di un uomo che ha voluto su di sé la storia, che incontra una donna. E siccome poi noi sappiamo, noi che siamo dotati, grazie a Dio, di corna lunghe che ci fanno da radar, sappiamo che c'è sempre lo zampino di una donna, ecco, quello che pensavamo fosse Berlusconi, il nuovo Carlo da Porto, quello che pensavamo fosse lui, l'uomo dicitore, invece in realtà è identico a Ciccio Formaggio. Ascoltate il dialogo perché è perfetto, li vediamo, sono da un lato Silvio e dall'altro la Pascale. Si muovulisse bene veramente, non mi faresti sfruguriare la gente, non mi tagliassi vizio da pagliette, non mi mettessi a crusca in da giacchetta. Si muovulisse bene mia Luisa, non mi rompissi quelle da camisa. Per dirla con Totò, qui si abusa. Se non abusi il ciccio formaggio, non te lo coraggio nemmeno. E non può parlare quel poveretto. No, non può, non può. Riconoscete, questa è Raffaella Carrà, Mina e Nino Taranto. Bei tempi, eh? Bei tempi, la grande Rai di una volta. Vabbè, facciamo scoppiare ancora una bolla, va Mario? No, allora andiamo. Andiamo verso la storia. Ah, la grande Russia di una volta. Che meraviglia. E li lasci cantare. Secondo me stanno cantando sott'acqua, sotto le acque del Mar Baltico, loro cantano. Era la caccia a Ottobre Rosso? O era russo? Oppure era un olandese volante? Signore e signori, la saga del sottomarino nel Baltico, del sottomarino russo, continua. Gli svedesi, armati di tutto punto, sono le ultimissime notizie, non l'hanno ancora trovato. Hanno anche ritirato parte delle navi, ma subito hanno detto, non stiamo rinunciando alla ricerca. Un ammiraglio, caro Giovanni, caro Pietrangelo, mettetevi il giubbotto antiproiettile, ha detto, useremo la forza per tirarlo in superficie. Foto del sottomarino sono già comparse su Twitter. Alla guida, al timone, c'erano sicuramente Putin in persona, ma io ho visto anche la Merkel e il dittatore della Nord Corea. Attenzione, perché è arrivato un altro nuovo commento da Mosca, ve lo dico, mentre siamo al settimo giorno di caccia nel Mar della Svezia, e il commento è il seguente. Bevete solo vodka russa. Non dà la testa. Sai perché Yellow Submarine? Perché? Perché il Moscow Times ha detto che questo è il vero sommergibile. 800 24 00 24, il numero verde, numero SMS 349 238 6666. Dopo la pubblicità, come tutti i venerdì, è anche il momento della nostra posta, perché oggi lettere se ne scrivono da tutte le parti. La nostra è la posta del cuore. Mix 24. Prima della posta del cuore, Mario, ancora una bolla. Vai. E te l'ho detto che voglio fare DJ. Allora, vabbè, questo era Slow Hand e Clapton, ovviamente, per chi non lo sapesse. Perché cocaine? Perché per i consumi e gli andamenti, insomma, dell'economia europea, forse bisogna guardare vizi, vizietti e anche cose strane. Unilever, che è il gigante del settore dei beni di consumo, vende 60 miliardi per intenderci di questa roba, dice che le cose andranno male. American Tobacco, che vende sigarette, come sapete tutti, ha i ricavi che sono scesi da 87 miliardi nell'anno, nello stesso periodo a 82, si fuma meno. Conviene però guardare anche il consumo di sapone Dove, del cornetto e della birra, perché Heineken ha appena detto, che è un gigante del settore, che in Italia, Regno Unito, Francia e Olanda i consumi sono diminuiti. Salamino! Ho tentato un collegamento telefonico, io dico pronto e non mi risponde, dico pronto e non mi risponde, tutto al più dice bau, aia, dice bau, io dico non capisco e ripete bau, non capisco, ripete bau, a un certo punto impietosito dice B come Bologna, A come Ancona, U come Udine, insomma cerca di, lo sapete qual è la verità? Quale? Che noi, che abbiamo spesso avuto ospiti, Dudu e Aiace Telamoni, adesso non possono più parlare con noi. Perché? E perché la magistratura ha iscritto nel registro degli indagati Luciana Littizzetto dietro richiesta degli animalisti, solo perché la Littizzetto durante una puntata di Che Tempo Che Fa ha trasportato un maialino. Nei guai si trova pure Insinna, che c'ha ospite nella sua trasmissione un gufo. Oltretutto i gufi poverini sono maltrattati da Matteo Renzi, ma non è finita. la sorveglianza di questi, come possiamo dire, filantropi che trasferiscono l'amore verso gli uomini negli animali, quindi nella zoofilia imperante del politicamente corretto, adesso hanno proibito perfino questa. Io a rischio la manderei in onda. Non si può più fare, perché è sessismo nei confronti delle civette che non possono essere additate alla, come dire, all'arrapamento pubblico. Ed è arrivato finalmente il momento della posta del cuore, Sara. Mi sei mancato tanto, tanto. Prometto di non lasciarti mai più. Oh mio Dio, mamma, sei fantastica. Il primo straccetto che ho trovato. Ti presento una persona. Mamma, lei è Charlie. Ero un po' agitato per il vostro incontro. Davvero? Perché? Charlie, vuoi sposarmi? Sì! Sì! Oh, come sono felice per voi. Lo so che mia madre può essere un po' pesante. Sappi che il tuo pianto non mi impressiona. E tu sappi che a Kevin piacciono le ragazze magre. Fatti sotto, nonnetta. Ecco, oggi si parla di suocere. Leggo questa lettera. Sapevo che con lui avrei sposato anche la sua famiglia, ma non credevo fino a questo punto. Mia suocera è una donna brillante, giovanile, naturalmente elegante. Una che ti mette sotto con grazia, l'ha fatto con il marito, con i figli e ora con me. Incontrandola la prima volta era evidente che senza la sua approvazione non sarei andata da nessuna parte. Così ho reso omaggio alla regina e sono stata ammessa a corte. Un po' alla volta si è insinuata nella nostra vita e se oggi devo decidere il colore del divano o la data delle vacanze, è con lei che devo parlare, perché è ovvio che le faremo tutti insieme. Ha persino le chiavi di casa nostra e le usa senza riguardo. Ne ho parlato con mio marito, prima ha finto di non capire, poi si è risentito e ha preso le sue parti. Mamma, con tutto quello che fa per noi, una martire. Ormai la odio. Lei ha capito ed è pronta alla battaglia, ma io no, non voglio perderlo. Qua Pietrangelo c'è una principessa, anzi per la precisione una principessa per sempre 77 in lotta contro una regina un po' dispotica. Ti fa venire in mente qualcosa, non so, un'eroina d'altri tempi? Mi fa venire in mente un fatto, che è impossibile averla riuscire, sopraffare, ribellarsi a una regina, patto che ci sia lei col sovrano. Perché nel mondo delle cose giuste, così come erano i romani, era fatto salvo un principio che la donna sposa gli avi e i penati del marito. Ma si dice marito, in linea patriarcale. E quindi se sta principessa vuole diventare regina, deve stabilire un patto d'alleanza col sovrano. E poi, insomma, nella storia sì, c'è un esempio bellissimo. I danni che fece Maria José di Savoia e invece l'esempio luminoso, bellissimo, di un'altra regina di casa Savoia, Elena di Montenegro, che pur essendo nobilmente ortodossa, si adattò al cattolicesimo, ma riuscì a dominare quella stagione. Ma scusate, io anche voglio dire, ma tutto sto casino per una suocera, Maria José di Montenegro, ma voi siete pazzi. No, cioè, noi abbiamo bisogno di esempi alti. Perché tanto per le cose basse hai voglia. Ci siamo già noi nel nostro quotidiano per cosa. Le cose E allora Sara? E allora io invece ho per l'appunto un consiglio basso. Allora, principessa per sempre, Monsignor Paolo Rigon, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico della Liguria, aveva detto che quando per ogni scelta della coppia è necessaria l'approvazione del genitore, lo sposo diventa un sostituto, cioè il vero coniuge è o la mamma o il papà. Quindi diciamo che il mammismo è stato ufficialmente inserito tra le cause che consentono di chiedere la cancellazione delle nozze religiose. Quindi non la potrà sconfiggere, perché il matrimonio è nullo. Però può scappare. Come Woody Allen quando metteva in scena nel letto tutti i suoceri. Perché esatto. il matrimonio è nullo. Ma quelle sono delle depravazioni da psicoanalisi, superstizioni. Ah, certo. Dopo il 24 ottobre del 1897 nasceva Aristide Merlone. Dopo il giornale radio, come ho già detto prima, con Marina Milone raccontiamo quella che, mi dispiace per il nostro ascoltatore, è una grande, grandissima avventura imprenditoriale italiana che attraversa tre generazioni, un modello di impresa anche conosciuto come la via marchigiana allo sviluppo. Ascoltiamo Romano Prodi. Era talmente fissato, e questo nei suoi figli era fortissimo, nel rapporto con la sua città, che quello che mi colpì è questo: è andato in Piemonte, ha creato una struttura legata a quello che era lo sviluppo modesto, ma lo sviluppo industriale di allora, torna in un luogo del tutto senza cultura industriale e lì ci rimane per via delle radici, non per via della convenienza industriale. Dopo il giornale radio, Aristide Merloni, e per chiudere la settimana, Senza fine di Gino Paoli. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare.